Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Buonasera, buonasera a tutti. Che strano dire buonasera. Beh, insomma, di solito Effetto Notte è l'ora che trascorrete in compagnia di Roberta Giordano. Mancherà per qualche giorno, tranquilli, nulla di grave, ma per qualche giorno, anzi per qualche sera, non ci sarà Roberta. Per questa sera vi tengo compagnia io, che sono Marta Cagnola. Solitamente mi sentite il sabato pomeriggio o nei giornali radio. Questa sera, appunto, starò con voi fino alle 22. Come al solito c'è il numero per i vostri SMS, i vostri WhatsApp, se volete tenerci compagnia, 349-238-6666. In compagnia, appunto, mia, ma soprattutto delle notizie di Radio 24, delle notizie della redazione di Radio 24, questo è un brevissimo riepilogo di quello che è successo oggi. Allora, intanto una notizia dell'ultima ora: San Bernardino, California, spari in una scuola, sarebbe un omicidio-suicidio, almeno due i morti. Inchiesta Consip, indagini su un carabiniere che avrebbe falsificato l'informativa su Tiziano Renzi. Cassimatis vince il ricorso, ma dal blog del Movimento 5 Stelle si ribadisce: non sarà la candidata a sindaco di Genova. Infine G7 Energia, gli Stati Uniti bloccano l'accordo sul clima, mentre a Lucca si tratta sulla Siria. E allora, in apertura, le ultime notizie dagli Stati Uniti. Colpi di arma da fuoco in una scuola elementare a San Bernardino, in California. Secondo quanto riportato in questi momenti dai media americani, ci sarebbero almeno due morti. Riteniamo sia un omicidio-suicidio, è accaduto in una classe, ha scritto su Twitter il capo della polizia locale. La sparatoria è avvenuta in una classe intorno alle 10:30 del mattino locale, cioè alle 19:30 ora italiana. Lo sparatore sarebbe entrato con il volto coperto con una bandana nera e avrebbe aperto il fuoco. Passiamo ora alle notizie dall'Italia. Ho appreso la notizia questo pomeriggio dall'agenzia, ho chiamato io mio padre e la reazione immaginabile: si è messo a piangere. È pur sempre un uomo di 65 anni e questa vicenda è una cosa grossa che colpisce come accadrebbe a qualunque famiglia. Così Matteo Renzi, a margine della registrazione questa sera di Porta a Porta, racconta il versante personale della notizia di oggi sull'indagine al capitano del NOE sulla vicenda Consip e con la ricostruzione di quello che è successo. Io dico: uno, piena fiducia nei confronti della magistratura; due, per mio padre e per tutti gli altri chiedo semplicemente che ci sia la verità, chiedo semplicemente che ci sia la verità; tre, sulla mia e sulla nostra onestà non abbiamo nulla da nascondere, anzi, la bandiera onestà io la rivendico. Si chiama Giampaolo Scarfato, il capitano dei carabinieri del NOE, indagato per falso nell'inchiesta romana sugli appalti Consip. Convocato in procura ieri, l'ufficiale si è avvalso della facoltà di non rispondere e accusato di aver depistato le indagini, falsificando la trascrizione dell'intercettazione ambientale che avrebbe provato l'incontro fra Tiziano Renzi e Alfredo Romeo, l'imprenditore napoletano arrestato per corruzione. In particolare, secondo quanto scoperto dagli inquirenti, avrebbe attribuito a Romeo una frase che in realtà era stata pronunciata dall'ex parlamentare Italo Bocchino. Ma non solo, l'ufficiale infatti avrebbe anche cercato di accreditare un ruolo di disturbo da parte dei servizi segreti nei confronti degli investigatori del NOE, ai quali, dopo una fuga di notizie nelle scorse settimane, i magistrati romani hanno deciso di togliere le indagini sul caso. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come dicevamo, Matteo Renzi sarà ospite questa sera Porta a Porta. Queste le anticipazioni della registrazione. Qualcuno dice che abbiamo lasciato un buco di 3 miliardi, è fake news. Abbiamo lasciato i conti in ordine, anzi abbiamo lasciato un tesoretto di 47 miliardi di euro, il fondo per gli investimenti che avevamo messo da parte. Sul voto, dire che voglio il voto a ottobre non è vero, c'è un governo in carica che un pochino lo conosco e sta facendo cose che avevamo impostato. Invece sui 5 Stelle io vorrei parlare di cose concrete, ad esempio di vaccini. Grillo ha messo in discussione la mammografia, ha attaccato Veronesi, addirittura la Montalcini. Io vorrei un confronto su questi temi e invece loro prendono casi giudiziari e attaccano. ma proprio sul fronte del Movimento 5 Stelle. Marika Cassimatis canta vittoria, si considera la candidata del Movimento 5 Stelle a Genova dopo aver incassato il pronunciamento a suo favore del Tribunale. Ma Grillo non vuole fare marcia indietro, la Cassimatis non è né sarà candidata con il Movimento 5 Stelle a Genova alle elezioni dell'11 giugno, si legge sul blog. Intanto la cronaca dal capoluogo ligure. Nella sentenza il giudice Roberto Braccialini scrive in sostanza che Beppe Grillo non era titolato ad annullare le comunarie del 14 marzo scorso perché un atto del genere non può rientrare nelle competenze del leader nazionale di un movimento al quale spetta una funzione di indirizzo e non il diritto di ultima parola, tantomeno giuridicamente può valere il fidatevi di me. Una sentenza a suo modo inedita che per Marika Cassimatis, riabilitata vincitrice della consultazione online, ha anche un valore politico. Perché il Movimento 5 Stelle, che è un movimento, porta come bandiera il discorso della democrazia, della trasparenza, deve poter assicurare democrazia e trasparenza anche all'interno di se stesso. Le elezioni incalzano, si voterà tra 2 mesi e per i 5 Stelle a Genova, la città del fondatore del movimento, la prospettiva è alquanto incerta. Grillo potrebbe fare ricorso e comunque risulta titolare del marchio, anche se sul suo uso i pareri divergono. Nella conferenza stampa in piazza, la Cassimatis ribadisce la querela per diffamazione nei confronti di Grillo. Grazia invece Di Battista si dice comunque disposta ad una soluzione amichevole e spiega che ora come ora è lei la candidata alle comunali. Sono ancora iscritta al Movimento 5 Stelle, accedo al blog. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. E come dicevamo sul blog del Movimento 5 Stelle si legge che Marika Cassimatis è stata sospesa e la votazione del 14 marzo è stata annullata. Pertanto la stessa non è né sarà candidata con il Movimento 5 Stelle a Genova alle elezioni dell'11 giugno. Il caso Cassimatis diventa un precedente con cui il movimento dovrà fare i conti a livello nazionale. Il colpo di mano di Grillo a Genova non passa, commenta intanto il PD. È stata scongiurata la morte della democrazia, dicono da Forza Italia. Di diverso avviso Salvini. Per me è sbagliato, dice il leader della Lega, che sia un giudice a decidere chi si candida o no. Altra polemica che accompagna i pentastellati in queste ore poi il ruolo dei sindacati. Stoppa la sua mediazione, si legge nella discussione sul blog, sul programma Lavoro. Toglie privilegi non significa eliminare sigle e diritti, spiegano subito però i deputati grillini. Altro fronte politico, quello delle primarie PD. Se va avanti l'attuale linea, perderemo le elezioni, dice Orlando. Renzi, segretario, pensa a se stesso, demolirebbe il partito, aggiunge Emiliano. L'ex premier chiede invece agli elettori PD un'investitura forte per sfidare il Movimento 5 Stelle sul futuro e rilanciare la battaglia in Europa contro l'austerity. A fine legislatura lascio la politica, il PD è di un uomo solo. Annuncia quindi la Bindi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E approfondimenti sulle vicende Consip e Cassimatis ancora più tardi in Effetto Notte. Ma ora parliamo del governo ancora al lavoro in queste ore per il varo domani del DF e della manovra di primavera da 3,4 miliardi di euro. Al Ministero dell'Economia si lavora per chiudere il documento programmatico di economia e finanza e la manovra di primavera, provvedimenti che non si esclude possano approdare entrambi domani al Consiglio dei Ministri. Il DEF sarà all'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo anche perché la prassi europea indica come scadenza di approvazione il 10 aprile. Accompagnato dal piano nazionale delle riforme da inviare a Bruxelles, il DEF ridisegnerà il quadro macroeconomico italiano, considerando anche la correzione del deficit strutturale dello 0,2%, che sarà fatta con la manovrina sollecitata dall'Europa. Ma la correzione dei conti pubblici 2017 da 3,4 miliardi di euro potrebbe richiedere ancora qualche giorno di approfondimento. Il Ministero dell'Economia sta valutando e limando le misure necessarie a far quadrare i conti. La manovrina sarà costruita essenzialmente con risorse prese dalla lotta all'evasione IVA, più tasse su giochi e sigarette, possibile rottamazione delle liti fiscali e tagli alle spese dei ministeri. Manovra accompagnata anche da misure per il sostegno alle zone terremotate e alla crescita. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Due ore di corteo pacifico lungo la circonvallazione che costeggia le mura storiche di Lucca, mentre i ministri degli esteri del G7, blindatissimi a Palazzo Reale, discutevano la situazione geopolitica internazionale. Poi intorno alle 18 da un furgone sono spuntate reti metalliche e alcuni manifestanti si sono coperti il volto, minuti di tensione. Ne parleremo tra poco con Laura Bettini, che ci racconterà anche dei contenuti del summit e del mancato accordo sul clima del G7 Energia. La Svezia si è fermata oggi per un commosso minuto di silenzio in memoria delle quattro vittime dell'attentato di venerdì compiuto con un camion nel centro di Stoccolma. Ho agito su ordine dell'ISIS, avrebbe confessato l'attentatore. Ho investito degli infedeli, lo avrebbe dichiarato Rakhmat Akilov, l'uomo arrestato con l'accusa di essere l'autore dell'attentato di Stoccolma, lo riportano i giornali svedesi Aftonbladet ed Expressen. Secondo il quotidiano britannico Mirror, il 39enne originario dell'Uzbekistan, alle autorità svedesi avrebbe inoltre rivelato di aver realizzato ciò che si era proposto di fare e di aver agito per vendicare i bombardamenti sull'ISIS. L'uomo, illegale in Svezia e colpito da provvedimento di espulsione, avrebbe detto di aver pianificato l'attacco eseguendo anche una ricognizione della strada pedonale scelta per la strage. Nella sola Stoccolma vivono alla macchia almeno 3.000 esuli non riconosciuti colpiti da provvedimento di espulsione. In tutta la Svezia sono tra i 50 e i 60.000. Ora i servizi di sicurezza svedesi stanno monitorando da vicino i militanti dell'estrema destra per evitare possibili vendette dopo l'attacco di venerdì che ha provocato quattro vittime, tra cui una ragazzina di 11 anni e 15 feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Il capo dell'intelligence svedese Anders Thorberg alla TV pubblica ha infatti parlato di conversazioni su internet in cui si inneggia alla vendetta e alla violenza. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Esordio positivo per Avio a Piazza Affari. Il titolo del gruppo aerospaziale ha chiuso la seduta in rialzo del 6,6% a 13,4 euro. L'azienda italiana è specializzata nella produzione del razzo Vega per il lancio in orbita di satelliti. Parliamo anche di Tesla e della borsa americana. Tesla ha superato General Motors ed è diventata la prima casa automobilistica americana per capitalizzazione. L'azienda californiana vale in borsa oltre 51 miliardi di dollari contro i poco meno di 51 di GM. La corsa di Tesla, che ha guadagnato il 70% in 4 mesi a Wall Street, è sbalorditiva se si tiene conto che l'azienda nel 2016 ha prodotto solo 84.000 auto e ha perso quasi 700 milioni su 7 miliardi di ricavi. Com'è possibile che valga più di GM, che l'anno scorso ha fatturato 166 miliardi e ne ha guadagnati quasi 10? La PIL di Tesla non è però basata solo sulla speranza. L'azienda ha dimostrato di poter progettare e vendere auto elettriche di successo, battendo di parecchi anni la concorrenza tedesca e giapponese. La scommessa decisiva dell'azienda fondata da Elon Musk è ora il lancio della Model 3, previsto per la seconda metà di quest'anno. Se anche la vettura da $35.000 avrà successo, Tesla potrà ripagare anche con gli utili la fiducia di Wall Street. Andrea Malan, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prosegue senza sosta l'imponente caccia all'uomo delle forze dell'ordine nelle boscaglie emiliane fra il ferrarese e il bolognese, alla ricerca di Igor Vaklavic, detto il russo. L'uomo però russo non sarebbe, ma sarebbe serbo e ricercato nel suo paese per rapina con violenza sessuale. Lo ha detto il comandante generale dell'arma dei carabinieri, Tullio Del Sette. Lutto nel mondo dello sport e del design. Si è spento a Sarnico a 95 anni Carlo Riva, l'uomo che ha fatto del disegno nautico italiano una leggenda. Ingegnere con la passione dei motoscafi, Riva ha ideato e realizzato tra gli anni 50 e 70 le barche più ambite e ammirate del mondo. Tra tanti modelli, il più famoso di tutti è stato l'Acquarama. E di questa e altre notizie parleremo poi nel corso di questo Effetto Notte. Staremo insieme fino alle 22. Adesso una breve interruzione per il traffico, poi appunto gli approfondimenti. In particolare cominceremo con le vicende Consip e Cassimatis. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. San Bernardino, California, spari in una scuola, sarebbe un omicidio-suicidio, almeno due i morti. Inchiesta Consip, indagini su un carabiniere che avrebbe falsificato l'informativa su Tiziano Renzi. Cassimatis vince il ricorso, ma dal blog del Movimento 5 Stelle si ribadisce non sarà la candidata a sindaco di Genova. G7 Energia, gli Stati Uniti bloccano l'accordo sul clima, mentre a Lucca si tratta sulla Siria. Io dico: uno, piena fiducia nei confronti della magistratura. Due, per mio padre e per tutti gli altri, chiedo semplicemente che ci sia la verità. Chiedo semplicemente che ci sia la verità. Tre, sulla mia e sulla nostra onestà, no, non abbiamo nulla, nulla da nascondere, anzi, la bandiera onestà io la rivendico. E questa è la reazione di Matteo Renzi, che ha parlato a Porta, che sarà in onda questa sera, ma come sapete Porta Porta viene registrato, quindi qualche anticipazione viene diffusa poco prima, in particolare nella TG1 delle 20. Allora, questa è la reazione di Matteo Renzi alle notizie diffuse oggi sull'inchiesta Consip. Allora, cos'è successo? Cerchiamo di capire e di ricostruire lo stato delle cose di questa indagine che aveva colpito il padre di Matteo Renzi, Tiziano Renzi, e oggi c'è stata un'importante novità. Ne parliamo con una bravissima collega del Sole 24 Ore, Sara Monaci. Buonasera Sara. Buonasera. Allora, ciao Sara, dici un po' che cosa è successo oggi, a che punto siamo? Insomma, Matteo Renzi ha detto: grande fiducia nella magistratura, ho appreso la notizia questo pomeriggio dall'agenzia, ho chiamato mio padre, la reazione immaginabile, si è messo a piangere. Insomma, una novità importante in questa inchiesta. Sì, è una novità importante, anche diciamo inquietante, perché in questa inchiesta abbiamo già visto il coinvolgimento anche delle forze dell'ordine. Vi ricordo che i carabinieri del NOE di Napoli si sono visti togliere la delega da parte della Procura di Roma. L'inchiesta è partita da Napoli, era stata data una delega alla Guardia di Finanza e ai carabinieri di Napoli. Una volta trasferita a Roma, l'inchiesta è passata invece di mano al NOE di Roma. Questo proprio perché si parlava di una rivelazione del segreto d'ufficio che sarebbe proprio uscita dai carabinieri napoletani, che avrebbero presumibilmente, secondo le indagini, avvisato proprio i vertici del governo e di conseguenza ne sarebbe venuto a conoscenza il ministro Luca Lotti, anche lui indagato per rivelazione del segreto d'ufficio, e lui avrebbe a sua volta contattato i vertici Consip, che poi avrebbero effettuato delle bonifiche. Ecco, proprio per questo lo scenario era già inquietante, perché in questa parte dell'inchiesta si erano visti coinvolgere anche dei livelli dello Stato. E quindi già questo era un livello piuttosto importante. Ecco. L'inchiesta, lo ricordo, è per corruzione, riguarda l'imprenditore Romeo, che avrebbe cercato di vincere, peraltro non riuscendoci neppure, alcuni lotti di un grande appalto da 2,7 miliardi per la gestione dei servizi della pubblica amministrazione. Ne avrebbe vinti altri di lotti, non proprio quelli che voleva, quelli per i grandi palazzi delle istituzioni romane. Tuttavia si presume questa tentata corruzione pagando un funzionario di Consip, e qui siamo a livelli iniziali. Poi appunto si parla di una fase di intermediazione che vede coinvolto Tiziano Renzi, che invece è accusato di traffico illecito di influenze, questo strano reato che intende punire l'intermediazione. Dico strano perché è un reato nuovo introdotto dal codice penale, che è difficile poi provare, perché l'intermediazione si tratta di una fase intermedia in cui qualcuno vanterebbe dei rapporti di alto livello e che quindi convincerebbe, per via di questi rapporti che ha, i vertici di un'istituzione, un pubblico ufficiale, qualcuno che ha il potere di influenzare l'appalto. E in questo quadro ci sarebbe stato questo incontro di cui si parlava, di Alfredo Romeo e del padre di Matteo Renzi. Esattamente, qui entriamo nel vivo di quanto accaduto oggi. Allora, in questa intermediazione un ruolo fondamentale, diceva l'inchiesta fino a poche settimane fa, avrebbe avuto un ruolo centrale Tiziano Renzi che secondo alcune intercettazioni, per ora non ci sono però prove ovviamente, secondo alcune intercettazioni avrebbe potuto forse incontrare direttamente Romeo con un altro piccolo imprenditore russo caso che conosceva Tiziano Renzi sin dall'infanzia, di origine di Scandicci, lo stesso paese di Tiziano e di Matteo Renzi. Ecco, in questa fase sarebbe stata redatta questa informativa del capitano Giampaolo Scafarto, oggi indagato per falso ideologico, perché non sarebbe stato, dice la procura di Roma, Romeo a dire "ho incontrato Tiziano Renzi", sarebbe stato invece Italo Bocchino, lo ricordo, Italo Bocchino anch'esso indagato per traffico illecito di influenze, perché risulta in questa grande inchiesta come colui che cercava anche di gestire gli appalti per avere in cambio dei voti, quindi avere un controllo sull'esito dei risultati elettorali nel napoletano. Il fatto che oggi si venga a sapere che non sia stato Romeo, l'imprenditore accusato di corruzione, ma Italo Bocchino aver detto che aveva incontrato Tiziano Renzi, cambia un po' lo scenario, perché questa informativa era l'atto di accusa principale. Era la pistola fumante. Sì, perché lo stesso imprenditore diceva che per corrompere i vertici Consip avrebbe incontrato direttamente Tiziano Renzi. Ora Tiziano Renzi non sarebbe più stato incontrato, dicono oggi gli inquirenti, da Romeo, ma da Italo Bocchino, anch'esso indagato, ma indagato per traffico illecito di influenze, che è un reato inferiore come gravità, ma che comunque poi è all'interno dell'inchiesta in modo collaterale, indagato sì, ma non direttamente per l'attività in questione su questo grande appalto. Quindi è chiaro che oggi viene vissuta come una sorta di alleggerimento che dovremo vedere, di cui gli esiti dovremo chiaramente poi valutare, però è chiaro che sta venendo fuori che la ricostruzione di un'indagine non è esatta. Peraltro, aggiungiamolo, Scafarto questo capitano dei Carabinieri avrebbe messo nell'informativa anche un altro dettaglio, che c'erano delle persone, forse si immagina dei servizi segreti, che controllavano il modo in cui gli stessi inquirenti stavano recuperando del materiale. Il materiale si trattava dei foglietti in cui si poteva evincere eventuali pagamenti direttamente avvenuti a Tiziano Renzi. Ecco, è un modo anche per sollevare, questo direbbero oggi gli inquirenti, il dubbio che ci fosse un'operazione dei servizi segreti, una qualche manipolazione, uno spionaggio pronto per coprire o, non si sa, condizionare le indagini. Mi sa che avrai molto da fare nei prossimi giorni con questa notizia, cara Sara. Però che lo spionaggio non c'è stato probabilmente, quindi può darsi che abbia da fare, ma sta venendo fuori che forse l'inchiesta è più leggera del modo in cui è partita, quindi diciamo che è un po' un triplo carpiato questa inchiesta che ci accompagna dalla fine di dicembre a oggi. Grazie mille a Sara Monaci del Sole 24 Ore, che segue con attenzione questa vicenda, e noi voltiamo pagina. Siamo contenti per tutti, perché è stata veramente una battaglia per la giustizia e per la legalità. Se c'è la determinazione e si è convinti delle proprie idee, si riesce poi ad avere ragione. Poi siamo in uno stato di diritto e quindi, diciamo, il fidatevi di me non è sicuramente uno strumento adatto, no? a risolvere delle controversie di questo livello. Allora, ancora prima di parlare della vicenda Cassimatis, mi arrivano al 349-238-6666 accuse di voler fare disinformazione. Io non voglio fare disinformazione, perché io per prima voglio capire bene cosa c'è dietro questa vicenda di Marika Cassimatis, che ha vinto il ricorso, ma il blog del Movimento 5 Stelle in serata ha detto non è e non sarà la candidata a sindaco di Genova. Chiedo subito alla collega Manuela Perrone di aiutarmi a capire cosa sta succedendo a Genova. Manuela, buonasera. Buonasera Marta. Allora, a Genova sta succedendo una deflagrazione, perché quello che oggi il Tribunale Civile ha sostenuto e ha ricordato è che il capo politico del movimento, e dunque Beppe Grillo, non poteva annullare una votazione degli iscritti. Questo è il dato centrale dell'ordinanza di oggi. Uh-huh. Il ruolo di Grillo non poteva essere tale, il Tribunale lo definisce l'istanza dirigista che c'è, deve essere contemperata per diciamo per garantire una cifra democratica al movimento in base alle regole che si è dato, deve essere contemperato con l'istanza movimentista assembleare. Dunque Grillo non poteva sconfessare quel voto così come ha fatto e non poteva dunque convocare con alcune violazioni del regolamento la nuova votazione che poi ha incoronato il secondo classificato alle prime comunali, cioè Luca Pirondini. Manuela, però lui ha ribadito dal blog, lui, insomma, diciamo il blog che porta il suo nome, ha ribadito che Marika Cassimatis non sarà la candidata. Il lavoro degli avvocati oggi, da oggi e probabilmente nei prossimi giorni, è quello di capire come evitare che Marika Cassimatis sia la candidata del movimento. Ci sono delle strade al vaglio, perché così come l'assemblea aveva individuato lei, una stessa assemblea riconvocata potrebbe eventualmente sconfessare quel voto. Il giudice non ha detto che gli iscritti non possono cambiare idea, ha detto che non è il capo politico che può sconfessare la votazione degli iscritti. Cioè che non c'è un potere di veto, come hai scritto tu su Sole 24 Ore. Esatto, lui non può avere potere di veto sui candidati, ma l'assemblea sì. Quindi una eventuale convocazione dell'assemblea con lo stesso quesito potrebbe ribaltare le carte ed escludere legittimamente Cassimatis dalla gara. Come reagirà il movimento è tutto da vedere, scrivi oggi sul Sole Online. Questo proprio è un altro nodo importante. Certo, proprio perché Marika Cassimatis era stata indicata dalla base. Il tribunale ha accertato, anche se si tratta soltanto di un'ordinanza di che ha accolto una richiesta di sospensiva, ha comunque accertato una violazione dello stesso del regolamento che il movimento si è dato. Quindi il malumore della base per l'errore di intervento a Genova è un malumore comprensibile. Cassimatis però determinata ad andare avanti, mi pare di aver capito dalla sua voce. Anche se oggi ha detto cerchiamo una soluzione amichevole, vorrei incontrare Grillo... Vediamo, ci sono i margini probabilmente anche per una soluzione diversa. Grazie Manuela Perrone, che seguirà ovviamente anche nei prossimi giorni questa vicenda molto interessante e appassionata. Grazie Manuela, buona serata. Grazie Marta, grazie a tutti voi. Allora, devo dire che, come mi aspettavo, al 349-238-6666, soprattutto su questa notizia, sono molto decisi e molto contrastanti i vostri messaggi e WhatsApp. Gli attivisti hanno già votato a maggioranza, se vuole la Cassimatis può sempre presentarsi con una lista civica, ma a maggioranza la cosa è già stata votata. E poi ascoltatore che dice magari dedicaste lo stesso tempo per le cose importanti, sai poi che la gente si svegli, vero? E dall'altra parte il caso Genova dimostra quanto il movimento sia seguito da gente imbevuta di fideismo, a loro non importa la verità, per loro la verità è Grillo. Insomma, è molto difficile così ragionare serenamente su questa vicenda che davvero scalda gli animi, e cerco lo capisco anche dai messaggi al 349-238-6666. Allora facciamo una breve pausa, non c'è, lo avete capito se vi siete collegati nel frattempo, Roberta Giordano, che tornerà tra qualche giorno al timone di Effetto Notte. Per questa sera ci sono io, cioè Marta Cagnola, che appunto vi terrò compagnia fino alle 22, sperando di non farvi sentire troppa nostalgia di Roberta, ma che davvero tornerà prestissimo. Allora, una brevissima pausa, poi abbiamo ancora tante pagine da aprire per questo Effetto Notte, tante notizie di cui occuparci. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ci ritroviamo con le notizie in 60 minuti di Effetto Notte. Per questa sera ancora al timone di questa barca che veleggia benissimo ci sono io, cioè Marta Cagnola. Roberta Giordano tornerà ancora con voi tra qualche giorno, ma come sempre questa è l'ora soprattutto delle notizie, e anche delle notizie della redazione di Radio 24, questo un breve elenco dei titoli. San Bernardino, California, spari in una scuola, sarebbe un omicidio suicidio, almeno due i morti, inchiesta Consip, indagini su un carabiniere che avrebbe falsificato l'informativa su Tiziano Renzi. Cassimatis vince il ricorso, ma dal blog del Movimento 5 Stelle si ribadisce: non sarà la candidata a sindaco di Genova. G7 Energia, gli Stati Uniti bloccano l'accordo sul clima, mentre a Lucca si tratta sulla Siria. Queste erano alcune delle immagini, degli audio che sono arrivati in queste ore da Lucca. Si parla di tensione tra manifestanti nel giorno del G7, ma cerchiamo di capire cosa è successo dalla nostra inviata Laura Bettini. Ciao Laura! Buonasera Marta, buonasera a tutti gli ascoltatori. Cosa è successo? Beh, un po' quello che avete sentito, però ovviamente sentire l'audio a volte impressiona molto più della realtà. Stiamo parlando di circa 200 persone, ma vogliamo esagerare 300? Io non ho il colpo d'occhio, insomma, di chi lo fa di mestiere, però insomma direi che quella più o meno era la cifra. Ci sono stati due ore di manifestazione molto pacifica, con cori forse già un po' sentiti, ecco, un po' superati, un po' sessantottini spesso, quindi avete sentito anche voi la polizia sempre nominata, e poi qualche allusione effettivamente a quello che è il tema qui, cioè il G7 dei ministri degli esteri che si riuniscono per parlare di Siria, e quindi qualche inno nei confronti, diciamo, della gestione della crisi siriana e della in gran parte conseguente anche crisi dei migranti, ecco, quello c'è stato. E i momenti di tensione sono stati sul finale, devo dire, effettivamente hanno tentato di forzare un po' il blocco, di passare laddove non era consentito passare, ma la cosa si è risolta in veramente in pochi minuti, ecco, non è stato drammatico. La città tra l'altro è blindatissima, Lucca ha una cinta muraria straordinaria di 4 chilometri, così com'era una volta nel Medioevo, con solo 4 o 5 porte, adesso non ricordo, quindi devo dire è anche facile da proteggere da un punto di vista delle forze dell'ordine, ecco, basta mettere i controlli agli ingressi e poi ci sono le mura che pensano a tutto il resto. Nonostante questo, grandi controlli all'alto con gli elicotteri. Ovviamente. Laura, sui contenuti di questo G7, che però diciamo alle battute iniziali. Sì, perché è iniziato oggi pomeriggio verso le 5, per l'appunto l'ora in cui è stata indetta la manifestazione, correttamente, perché sennò non avrebbe avuto senso farla. E c'è stato un primo incontro, poi una bella visita per la città, e credo siano rimasti un po' tutti a bocca aperta, non solo perché è bella, ma perché era anche incredibilmente vuota, quindi chiunque di loro l'avesse vista in altri momenti, ecco, ha potuto godersela così completamente da re, ecco, diciamo. I contenuti poi sono principalmente, fino alla settimana scorsa nell'agenda c'erano anche l'Ucraina, la Corea del Nord e qualcos'altro, tutto spazzato via dalla strage con i gas in Siria, Idlib, e poi dal conseguente intervento americano. E qua ovviamente tutti adesso si domandano quale sarà la risoluzione che riusciranno a partorire questi 7 ministri degli esteri dei paesi più industrializzati del mondo, cui domani si uniscono anche i ministri degli esteri di alcuni dei paesi arabi più coinvolti nella vicenda, parliamo dell'Arabia Saudita, la Turchia, la Giordania e così via. Che cosa riusciranno a partorire come linea comune? Perché poi alla fin fine tutti hanno un po' una sensibilità diversa rispetto a come si può intervenire in Siria, e quindi vedremo. Tra l'altro l'amministrazione Trump ha dato dei segnali piuttosto discordanti, no? Come sappiamo non ci interessa rimuovere Assad, però lo vogliamo punire perché pensiamo che abbia compiuto questa invio di che abbia colpito la popolazione civile con dei gas, e quindi che cosa faranno e che cosa dirà Tillerson domani? Tra l'altro Tillerson domani dopo parte da qui e va direttamente a Mosca, quindi va dal nemico, dall'amico, chi lo sa, Marta? Siamo non si un po' tutti curiosi più di vedere come se la gestiscono, ecco, questa cosa. Laura, tu come me sei una ragazza del sabato, io il sabato è il villaggio, tu l'altro pianeta, quindi sei abituata a parlare di ambiente e anche di energia. G7 Energia, sì. Facciamo un punto. Me lo sono perso quello purtroppo perché ero qua, però purtroppo, devo aggiungere un altro purtroppo, anche quello non è andato benissimo, una risoluzione finale in cui per l'appunto gli Stati Uniti non hanno voluto partecipare, quindi non c'è un'intesa. È fallita da questo punto di vista, ed è fallita perché gli Stati Uniti, come ben sappiamo, stanno ripensando la loro politica energetica nazionale, quindi stanno facendo un passo indietro dall'intesa di Parigi per la riduzione delle emissioni di gas serra, e quindi non hanno voluto tenere il passo su questo argomento con i loro amici del G7, che invece hanno preso degli impegni a Parigi che li stanno portando avanti. Quindi da quel punto di vista lì, come ha detto il ministro Calenda, ci sono state tante intese, compresa la fornitura di gas all'Ucraina, comprese l'importanza del GNL, gas naturale liquido, comprese tante altre cose, ma sull'aspetto riduzione dei gas serra e mantenimento degli obiettivi di Parigi non si è riusciti a concludere nulla tutti insieme. Accidenti. Grazie a Laura Bettini, che ha seguito per noi e seguirà per noi il G7, ci ha fatto un punto anche su questo G7 Energia. Grazie Laura. Grazie a voi, buona serata. E noi passiamo dall'energia alla salute. Oggi i dati del rapporto Osserva Salute 2016 è stato presentato oggi e ci dice qualcosa di più Alessandra Schepisi. Ciao Alessandra. Sì, ciao Marta. Un rapporto appunto che è stato presentato oggi ed è il frutto di un lavoro di 180 ricercatori di questo osservatorio nazionale sulla salute delle regioni italiane, che poi viene anche coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi un grosso lavoro. E in sintesi che cosa ci dice? Che gli italiani perdono colpi in fatto di salute, le malattie croniche aumentano, l'aspettativa di vita diminuisce, gli stili di vita non migliorano, mentre la prevenzione peggiora. Insomma, un quadro un po' piuttosto impietoso. Una delle maggiori emergenze, dice questo rapporto, è la cronicità delle malattie. Pensa che a soffrire di malattie croniche sono 4 italiani su 10, circa 24 milioni, mentre più di uno su 5 è multicronico, cioè soffre di più malattie croniche contemporaneamente. Questo significa ovviamente tante ricette, tante visite dal medico fiscale, tante risorse che vengono giustamente messe in campo per questi malati, ma che rischiano di mettere in crisi il sistema sanitario nazionale. Poi, ma soprattutto, il dato più allarmante è che siamo diventati meno longevi di una volta. Viviamo sempre a lungo, insomma gli italiani vivono sempre a lungo, però moriamo un po' prima. La speranza di vita si è attestata a 80,1 per gli uomini, 84,6 per le donne, si è abbassata di qualche mese, ma soprattutto si muore di più al sud. Quindi ad esempio chi è nato in Campania vivrà 3-4 anni in meno di chi è nato a Trento. Quindi accidenti. Quindi un rapporto che mette in luce anche l'annoso divario nord-sud del paese, quindi anche dal punto di vista della salute. E poi c'è anche un capitolo piuttosto interessante, che è quello che riguarda gli stili di vita. Insomma, gli italiani sono poco attenti, poco ligi, perché rimane stabile la quota di italiani in sovrappeso e obesi, stabile la quota di italiani che fanno sport, che fumano, e aumentano invece i consumatori di alcolici e antidepressivi. Insomma, un quadro piuttosto fosco, però vediamo se si salva qualcosa. Io ho sentito oggi il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi. Sentiamo cosa ci ha detto. Non abbiamo fatto abbastanza prevenzione da una parte. L'Italia è la Cenerentola dei paesi dell'OCSE per quanto riguarda la prevenzione, cioè spende in prevenzione meno di tutti e 30 paesi, non soltanto quelli europei, ma del mondo. È chiaro che questo poi è un dato medio, ma siccome la sanità è gestita dalle regioni, ci sono delle regioni che vanno un po' meglio e altre che veramente sono catastrofiche, però nessuna fa proprio al meglio delle sue possibilità. Noi dovremmo spendere il 5% in prevenzione, in media arriviamo al 3%, il che significa che alcune regioni spendono meno del 2%. Lei capisce che con questi soldi la prevenzione di fatto non si fa, o si fa troppo poco, e quindi la gente si ammala. Infatti il rapporto sottolinea anche l'annoso problema del divario nord e sud, si muore prima al sud. Assolutamente, cosa che non era così nel 2001, cioè quando c'è stata la devoluzione, quando la sanità è stata affidata alle regioni è cominciato un divario forte, e mentre i meridionali prima avevano un'aspettativa di vita di un anno superiore a quella dei settentrionali, oggi ce l'hanno mediamente tra i 3 e 3,5 anni in meno. Che cosa è successo? È successo che la sanità viene gestita dalle regioni, quindi sono le capacità organizzative delle regioni che fanno la differenza. In certi casi sono ottime e l'aspettativa di vita, così come la qualità, cresce, e in certi casi sono meno buone e in quelle diminuisce. Qualche segnale in positivo c'è in questo rapporto per poterci consolare? Diciamo, gli italiani rimangono uno dei popoli più longevi del mondo, tant'è vero che Bloomberg soltanto il mese scorso ci ha dato la palma del popolo più sano. In realtà Bloomberg che cosa fa? Vede la nostra aspettativa di vita che è tra le più alte, vede quanti soldi spendiamo per la sanità e noi su questo siamo tra i più bassi, quindi facendo il rapporto siamo tra i migliori, abbiamo una vita lunga e spendiamo poco in sanità. Però in realtà quello che ci aspetta se non spendiamo un po' di più in sanità e soprattutto se non li spendiamo meglio è che questo primato ci può essere corroso. Il segnale, diciamo, che dall'anno scorso l'aspettativa di vita comincia a diminuire è un segnale di allarme. Non irreversibile, siamo ancora longevi, però insomma qualche segnale d'allarme c'è. Insomma, più prevenzione dunque, Marta, è questa la parola d'ordine, no? Alessandra, più prevenzione, ma secondo me anche prenderla un po' con filosofia come fanno i nostri ascoltatori. Ti leggo solo che al 349-238-6666 un ascoltatore ci ha mandato un WhatsApp con scritto: beh, se si muore prima si andrà prima in pensione. Prendiamola con la sua filosofia, ah, cosa dobbiamo fare? Grazie ad Alessandra Schepisi, ciao Alessandra. Ciao, buonanotte. Noi ci ritroviamo tra poco, il traffico, poi saremo ancora insieme. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E l'ultimo spicchio, l'ultima fetta di effetto notte, sempre con i titoli che ci stanno tenendo compagnia, perché queste sono le notizie principali. San Bernardino, California, spari in una scuola, sarebbe un omicidio-suicidio, almeno due i morti. Inchiesta Consip, indagini su un carabiniere che avrebbe falsificato l'informativa su Tiziano Renzi. Cassimatis vince il ricorso, ma del blog del Movimento 5 Stelle si ribadisce non sarà la candidata a sindaco di Genova. G7 Energia, gli Stati Uniti bloccano l'accordo sul clima, mentre a Lucca si tratta sulla Siria. E ora parliamo di un viaggio che la redazione di GR24 da oggi compie sulla sicurezza nel paese. Ogni giorno in onda nel giornale radio delle 7 e qui a Effetto Notte, tra timori e numeri. C'è il caldo percepito e la temperatura reale. C'è una percezione diffusa di insicurezza, ma poi ci sono i dati, quelli dell'Istat e delle questure, che parlano di omicidi e furti in calo. E se il giornalista deve tenere conto della percezione dell'opinione pubblica, deve anche registrare la temperatura reale del paese, che tutto sommato è rassicurante. Per quanto riguarda i furti, i dati dicono che c'è stato un lieve aumento dal 2010 in poi. Dal 2015 invece c'è stata un'inversione di tendenza. Anche per le rapine la dinamica è la stessa. Nel 2015 sono state oltre 6.000, nel 2016 le denunce sono scese a 5.300. Per i reati violenti, come gli omicidi, il quadro è ancora più rassicurante. Omicidi, tentati omicidi e percosse sono reati che diminuiscono in maniera lenta ma costante da almeno 20 anni. E, almeno in questo caso, l'obiezione che viene fornita spesso, quella di un calo delle denunce, non dei reati, cade inesorabilmente. L'Italia, poi, rispetto agli altri paesi europei, è fra le nazioni più sicure. Secondo Eurostat, in Francia, gli omicidi registrati dalle forze dell'ordine sono stati nel 2014 il 50% in più che da noi. Va tutto bene, quindi? No, l'Italia è imbattibile per altri tipi di reati, in costante aumento, ma di cui si parla molto poco al bar, e sono corruzione e riciclaggio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Io direi che a quest'ora possiamo aprire la pagina sportiva. Intanto vorrei leggere un messaggio molto buffo che è arrivato al 349-238-6666 di uno che mi dice: hai la voce assai diversa dal tuo show del sabato pomeriggio, non ti riconoscevo. È perché finora ho parlato di notizie molto serie, quindi vado subito in modalità giornalista seria. Adesso però finalmente parliamo un po' di sport, non che non sia serio, ma insomma mi posso divertire un po' di più. Si può dire cazzeggio, diciamolo, a quest'ora, dai. Sono le 21.50, gli ultimi momenti di effetto notte, possiamo anche darci leggerezza. Appunto a un po' di leggerezza. Intanto Dario Ricci, eccolo qua, ovviamente. Eccoci. Avete riconosciuto la voce, cioè ti presenti a quest'ora in redazione? Che cosa hai fatto oggi tutto il giorno? Perché sei arrivato così in ritardo? La giustificazione di quelle d'alto livello, perché pellegrinaggio, non visita al Vinitaly. Ah vabbè. Per la presentazione del vino che Ripatetina, paese che mi sta nel cuore, ha dedica da oggi. Oggi è un grande campione, Rocky Marciano, straordinario campione del pugilato che unisce America e Italia. Ripa è il suo paese d'origine, il paese d'origine del papà, che emigrò a inizio del Novecento per cercare fortuna negli States, e così insieme alla mamma, e quindi nacque il grande campione, il grande Rocky, imbattuto, 49 match vinti in carriera, e adesso è nato questo splendido vino che oggi ho degustato, quindi sono bello carico. È per buono? Parlare di ottimo Montepulciano d'Abruzzo, di che parliamo? Allora, sono favorevolissima. Ci racconti un po' cosa sta succedendo nel calcio? Grande fermento, grande attesa, ecco, sono ore di attesa. A proposito di vino, siamo nella fase della fermentazione, esatto. Perché domani intorno a quest'ora ne sapremo già un po' di più, ma di questo Juventus-Barcellona saremo appena al primo terzo di questa sfida che durerà 180 minuti almeno, salvo poi i rovesci e supplementari. Siamo di fronte a una sfida epocale, diciamo calcisticamente epocale, che dà il sugo di tutta la Champions. Un Barcellona che zoppica in campionato, sconfitto a Malaga, ma che ha illuminato la sua stagione con quell'incredibile rimonta col Paris Saint-Germain, no? E quindi poi quando ti trovi di fronte Suarez, Messi e Neymar, sai che qualcosa di brutto ti può sempre succedere. Io non sono esperta, ma questi nomi li conosco Dracula bene. Dracula Suarez, domani, per dire, tra tanti intrecci, domani allo Juventus Stadium, tra l'altro rivincita della finale del 2015 di Berlino, vinto dal Barça sulla Juventus. Suarez, Dracula Suarez, che ritrova il collo di Chiellini dopo i mondiali, quindi chissà se gli dà un'altra dentata. E poi la sfida tra il presente, che è Messi, e il futuro Neymar e Dybala. Oggi lo ha detto Max Allegri, che fra poco loro due saranno i più bravi. Anzi, sì, sentiamo proprio questo passaggio di Allegri, che di fatto incorona Dybala e Neymar, che diventeranno i più bravi nel calcio mondiale. Paolo ha fatto dei passi da gigante da quando è arrivato l'anno scorso, ha cambiato posizione in campo, però come caratteristiche sono tre giocatori diversi, perché Messi, a parte che è il numero uno al mondo, lo è da tanti anni e ancora oggi lo è, quindi, però ha caratteristiche diverse da Dybala. Dybala è un giocatore giovane che sta crescendo molto, e credo che con Neymar potranno essere sicuramente i due più bravi nel prossimo futuro. E poi, diciamo, i pronostici, io mi prendo ancora qualche ora prima di farlo, perché questa è la classica partita da tripla, perché veramente non si può valutare solo su quelli che sono gli aspetti della tecnica calcistica, ma serve il campione a tutto tondo per uscire vincenti da una sfida del genere, come ha detto lo stesso Allegri, si vince con serenità e tecnica. Sentiamolo un po'. È un quarto di finale importante, come quello di Bayern e Real Madrid. Sono le quattro squadre, diciamo, pretendenti alla Champions, insieme all'Atletico Madrid, quattro si incontrano e ne rimane due. Saranno sicuramente quattro serate di grande spettacolo, e noi bisogna essere bravi e giocare una partita con grande serenità, con grande tecnica, perché quando giochi a questi livelli ci vuole grande tecnica, oltre che equilibrio in campo quando c'è da fare la fase offensiva e quando c'è da fare la fase difensiva. Caro Dario, ti do io una notizia sportiva proprio negli ultimi secondi di Effetto Notte. Dimmi. No, ma perché l'ho letta ora nelle agenzie. Stati Uniti, Canada e Messico presentano la propria candidatura a ospitare i mondiali di calcio 2026. Sì, era una delle ipotesi in campo, ora ufficializzata. Insomma, prepariamoci a prendere parecchi aerei. Esatto, insomma, perché esatto. Tra l'altro saranno già i mondiali a 48 squadre, quindi penso che a questa notizia già qualcuno dell'FBI, della CIA, già si stia preoccupando della sicurezza. Sono d'accordo. E finisce qui questo Effetto Notte. Ringrazio Roberta Frisani in regia, Cristian Goldoni indispensabile in redazione. L'appuntamento con le notizie è ancora per domani alla stessa ora.